Consiglio Comunale si riunirà in seduta solenne esattamente l'8 marzo, che cade di venerdì, alle ore 11.30 in sala consiliare. Con come ospiti principali avremo la direttrice dell'INPS, Valeria Ciferri, che ci porterà tutti i dati relativi alla nostra città, quindi all'andamento contrattuale che riguarda le donne, al gap gender che purtroppo è notevole. Io ho visto già un po' i dati e diciamo che non sono consolanti, nonostante le istituzioni nella nostra città sicuramente hanno fatto e fanno tanto, però diciamo che siamo ancora molto lontani da quello che è la parità economica, sociale e tutto ciò che riguarda anche le pensioni, perché anche di questo parlerà la dottoressa Ciferri. L'altro ospite è la Valentina Rubertelli, è una notaia, è la presidente del comitato regionale dei notai, viene da un'esperienza importante che è quella della presidenza nazionale e soprattutto dalla presidenza della commissione pari opportunità a livello nazionale. Ci parlerà di quello che è il gap gender, in questo caso nelle loro professioni, nelle professioni legali tutte, in particolare la sua esperienza, che sarà un'esperienza secondo me particolarmente interessante e non conosciuta, perché ci sono appunto delle professioni che forse non vengono considerate molto in questo senso. La loro è una professione in realtà particolare, le donne hanno anche degli sportelli di consulenza per i soggetti deboli e quindi le donne rientrano tutte, soprattutto le donne vittime di violenza. Loro hanno addirittura costruito e messo a disposizione dei cittadini, c'è nel loro sito una guida, un vademecum, che è una sorta di cassetto di difesa dove ci parlano e cercano di portare le persone, le donne, alla cultura economica, diciamo spiegandogli quelli che sono i numerosi trucchi che vengono utilizzati spesso per rendere le donne già vittime di violenza economica, no? In alcune situazioni, molte purtroppo, che sono quelle dove l'autonomia economica non fa parte di molte donne che sono purtroppo dal punto di vista economico dipendenti dagli uomini. Sarà molto interessante perché produrrà dei dati, ovviamente parlerà dell'esperienza specifica di loro come notaie, quindi dei divari che esistono anche nel mondo notarile, anche a livello proprio di diciamo di compensi economici, no? Abbiamo letto da poco l'ultimo report dell'INPS che ci parlava di differenze del 40% nel mondo privato tra donne e uomini per quanto riguarda, nonostante le carriere ora più o meno siano le stesse, le possibilità o perlomeno abbiamo migliorato molto, partendo dal fatto che lei dice già lì ci sono dei divari storici, perché nel 1925 c'è stata la prima notaia, mentre nel 1965 c'è stato il primo magistrato, quindi nel 28 la prima notaia, nel 65 il primo magistrato, quindi anche molto tardi le donne hanno avuto possibilità di entrare in carriera. Poi alle ore 14.30 noi abbiamo dei quadri, perché in questo mandato siamo partiti proprio con dare una certa importanza e soprattutto rivedere quello che è il palazzo, in questo caso la sala consiliare. Io come presidente del consiglio ho lavorato su quello. Dallo scorso anno noi abbiamo in consiglio dei quadri Le Sibille, di una pittrice donna, non c'erano assolutamente mai stati quadri di donne, era tutto al maschile la sala del consiglio comunale, così come gli scranni. Il primo scranno alla prima donna l'abbiamo proprio intitolato noi in sala consiliare. Ci sarà comunque un cambio, diciamo, le Sibille praticamente verranno sostituite, ritorneranno in Pinacoteca. Voi sapete che questi quadri ci sono grazie ad una convenzione proprio del Museo Pinacoteca e del Comune. Sarà sostituita da un altro quadro, stavolta di un pittore, di un uomo, e che rappresenta l'eroina di Cariddi, quindi una donna che comunque ha una storia importante in questo senso.